Letture di Radio 24. Dopo la proposta di Celentano di devolvere ad Emergency il suo compenso per la partecipazione al Festival di Sanremo, Pierluigi Battista lancia una controproposta: abolire il canone RAI. Domanda: ma se con il mio canone RAI obbligatorio contribuisco a finanziare il compenso sanremese di Celentano, se Celentano devolve il suo compenso a Emergency e se a me Gino Strada non sta talmente simpatico da finanziarne l'attività, ergo non è una violenza sulle mie personalissime, discutibilissime, ma legittime idiosincrasie e faziosità che Emergency sia finanziata anche con i soldi del mio canone RAI obbligatorio? Moltissimi, a destra e a sinistra, si domandano più o meno la stessa cosa. Ma perché con i miei soldi devo finanziare Vespa? Oppure, ma perché con i miei soldi devo finanziare Floris? Giuste e legittime ambedue le domande, che hanno una risposta unica. Bisogna abolire l'iniquo balzello, altrimenti definito canone RAI. Perché il canone RAI è il residuo dell'era giurassica, in cui c'era il monopolio statale della televisione. Perché nell'era dei telefonini, dei tablet, eccetera, eccetera, la gabella sul possesso di un televisore ci riporta all'epoca degli spazzacamini precedente all'invenzione dei moderni impianti di riscaldamento. Perché la nozione di servizio pubblico è una coperta troppo larga che serve per coprire qualunque scemenza che con il servizio pubblico non ha nessun rapporto. Perché guardare la RAI è il frutto di una libera scelta e non il risultato di un'imposizione arbitraria. Perché non è giusto pagare con le tasse di tutti gli italiani molti assunti per esclusivo merito lottizzatorio. Perché la RAI è gigantesca, più delle altre televisioni pubbliche europee, che se hanno il canone, non hanno pubblicità. Argomento solitamente cancellato dai sostenitori del balzello obbligatorio. Perché la RAI, stando al verdetto popolare di un referendum disatteso, dovrebbe essere almeno in larga parte privatizzata, rallegrando le casse dello Stato e le tasche degli italiani, alleggerite da una tassa in meno. Perché altera il mercato, perché mette i concorrenti nuovi, non quelli che già ci sono, in condizioni di inferiorità e di svantaggio. Perché il canone RAI è un'arma formidabile di chissà che comunque riceve un aiutino se non è capace di fare quadrare i bilanci. Perché è difficile da spiegare a un ventenne come sia possibile che sia nata questa anticaglia. Perché la RAI spreca un sacco di soldi. Perché non voglio pagare l'isola dei famosi. Basta? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Aboliamo il canone RAI, dal Magazine 7 del 9 febbraio.